Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. E ancora un'altra estate arriverà e compreremo un altro esame all'università e poi un tuffo nel mare nazionale. In questo appuntamento breve con il cacciatore di libri abbiamo deciso di dare la parola ai ragazzi. Che cosa leggono? Che cosa gli piace? Che cosa detestano? Quanto i libri per le vacanze assegnati a scuola incontrano il loro gusto? Secondo le statistiche, proprio nella fascia fra gli 11 e i 14 anni che si legge di più, poi inizia purtroppo il calo. E negli ultimi anni gli editori sono stati molto attenti a proporre letture per questa fascia di età. In gergo tecnico si chiamano romanzi young adult, per giovani adulti. Grande successo per questa fascia hanno avuto alcuni anni fa le saghe sui vampiri. Poi c'è stata l'esplosione di fenomeni come Braccialetti Rossi, Tutta colpa delle stelle, i romanzi di Jamie McGuire, Anna Todd. Sono tutti libri che parlano di sentimenti, amicizia, amore, ma lo fanno in modo realistico, vampiri a parte ovviamente. Spesso quello che piace di questi libri è proprio il fatto che i ragazzi possono immedesimarsi nelle storie. Ci sono genitori poco attenti, che non li capiscono, episodi di bullismo a scuola, voglia di fare parte di un gruppo e di condividere le esperienze. Ma basta chiacchiere, diciamo, diamo a questo punto la parola ai ragazzi perché vogliamo sentire le loro voci, sincere, senza il filtro degli adulti. Per far questo mi sono affidata a Radio Immaginaria, che è una web radio completamente realizzata dagli studenti delle scuole superiori. E allora sentiamo che cosa hanno da raccontarci sulla lettura. Ciao Alessandra, noi siamo i ragazzi di Radio Immaginaria, si stava parlando appunto di libri, per cui anche noi vogliamo dire la nostra. Io direi che possiamo partire subito dai libri che ci vengono assegnati d'estate. Sì, tra l'altro i miei professori a proposito sono stati molto molto carini nel darmi 18 libri in 3 mesi, con una media di 6 libri al mese, a partire da Frankenstein, poi arriviamo a un sacco di alla trilogia di Calvino, poi Kafka con Le Metamorfosi. Ho adorato quel libro, anche perché mia madre mi ha spoilerato il finale. Ti voglio molto bene mamma, perché ovviamente questo rapporto si vede in famiglia. Tra l'altro ho anche, tutti i professori mi hanno dato dei libri da leggere: filosofia con Aristotele Detective e matematica con La solitudine dei numeri primi. Io ho letto la descrizione e mi aspetto un libro molto informatico, molto matematico, numeri dappertutto, insomma. Beh, in realtà adesso ti farò uno spoiler: La solitudine dei numeri primi non c'entra niente con la matematica, cioè è una poesia, una cosa molto poetica e filosofica, però è una storia d'amore. Io pianto alla fine, quindi libera di C se piangerai anche tu alla fine. E non mi bastava mia madre a farmi spoiler per quanto riguarda libri. No, a me invece non hanno dato tanti libri, ma mi hanno dato molti libri in lingua. Per esempio ci hanno dato Amleto, Romeo e Giulietta, e tutti in inglese, Sogno di una notte di mezza estate. Io non capisco effettivamente a cosa servono. Se uno fa il linguistico, grazie, cioè nel senso, ma è normale che ti diano libri in lingua. A me invece è strano, perché a me gli hanno dati durante l'anno i libri. Per l'estate non mi hanno dato niente di libri, invece mi hanno detto leggete, mentre per l'anno mi hanno dato un sacco di mi hanno dato tipo 3 libri. Mi hanno fatto leggere Kafka, poi un altro libro, Io e te, e l'altro era uno, tra l'altro scritto a Bologna, che era Jack Frusciante Esce dal gruppo. Bello, quello devo assolutamente leggere. Comunque io sono Marta e io credo che i libri d'estate siano molto utili. Bisognerebbe semplicemente spiegare ai professori che loro devono dire: voi potrete leggere questi, vi consigliamo, semplicemente non devono obbligarci a farci test a settembre, perché altrimenti diventa una cosa molto ansiogena, e secondo me potrebbe essere un bel modo per consigliarci titoli ai quali altrimenti noi non arriveremo. E appunto, più che altro, facendo questi test a settembre diventa una roba obbligatoria, e magari uno leggendo il libro non si appassiona e la vede più come un obbligo. E a proposito di compiti d'estate, vi volevo citare un piccolo libricino che tengo in mano. È stato scritto da Cesare Catà ed è un professore, e si chiama Sognate la vostra vita, ed è composto da un elenco di circa 15 cose che secondo lui bisogna fare d'estate anziché dare i compiti delle vacanze. Difatti lui ha dato 0 compiti delle vacanze, e il punto 3 è appunto riguardante ai libri, e dice: leggete quanto più potete, ma non perché dovete. Leggete perché l'estate vi ispira avventure e sogni, e leggendo vi sentite simile a rondini in volo. Leggete perché è la miglior forma di rivolta che avete. E io devo dire che sono pienamente d'accordo, perché secondo me i libri possono permetterti di vivere situazioni che altrimenti non potresti mai vivere. Esattamente, anche io sono d'accordissimo, soprattutto sul fatto di non dare compiti delle vacanze. Però passiamo a un altro punto, che è i libri che invece leggiamo noi, per esempio i generi che leggiamo noi. Io per esempio non posso tollerare i libri romantici o libri horror, non mi piacciono per niente. Invece a me non mi piacciono proprio i polentoni, quelli che sono molto lenti come libri. A me piacciono i libri che come dire, dove la storia si svolge subito e non prende dei punti morti. Infatti questi libri li prendo talmente tanto che non posso staccarmi dal libro. Ho rischiato di essere investito 3 volte per dei libri da cui non mi riuscivo a staccare. Io invece ho uno stranissimo rapporto con i libri gialli, in quanto dopo aver letto il primo capitolo e appunto aver saputo che cosa è successo esattamente, vado esattamente all'ultima pagina per sapere chi è il colpevole. Anche una mia amica sceglie tutti i libri e lei li sceglie in base all'ultima frase. Se lei non legge l'ultima frase, lei non può essere felice e non può prendere quel libro. Invece sembrerà strano, però io da qualche mese ho una passione straordinaria per i libri narrativa mista a tematiche attuali importantissime. Ah, però cioè, non so la mafia, la criminalità organizzata, ecco, tutte queste cose qua miste ad una storia inventata, penso che siano di informazione e soprattutto divertenti da leggere, da ascoltare. Io ne sto leggendo uno molto sbagliato, non è proprio di storia moderna, però è la biografia di Che Guevara. E insomma, sì, è un gran bel libro, non lo sto finendo, credo che sarà molto dura finirlo, dato che sono 1508 pagine ambientate in un giardino. Ok, allora a me piacciono molto vari generi di libri, per esempio ho letto un sacco di fantasy l'anno scorso. Ah ecco, per fortuna non sono l'unica, perché tutti facevano i filosofi, io mi sentivo tipo, beh, io ho letto Percy Jackson, Hunger Games, Harry Potter, quindi mi sentivo un po' una bimba. Io invece ho letto Percy Jackson e poi adoro i classici d'avventura, sono bellissimi. Però quest'anno ho iniziato a leggere anche cose un pochino più, diciamo, più serie, per esempio ho iniziato a leggere una specie di biografia romanzata di Van Gogh che si chiama Brama di vivere di Irving Sohn, e diciamo che sono a metà e mi sta piacendo molto. A me invece piacciono molto i libri di avventura, ma non di avventura, i classici degli avventurosi, ma i libri di libertà, cioè di libertà estrema, e li scelgo di solito in base all'autore, cioè se trovo un libro di un autore poi devo leggere tutta la collana di quell'autore. Invece proprio su queste cose io quest'anno ho letto in classe un passo di un libro che si chiama Il cimitero dei libri dimenticati, che descriveva come un bambino entrato in questo luogo veramente straordinario e fantastico. L'ho letto anch'io questo, dove venivano archiviati tutti i libri dimenticati e dove questi guardiani dovevano praticamente fare scegliere attraverso diversissimi criteri ai bambini che vi entravano, alle persone che vi entravano, il libro da scegliere, da proteggere per tutta la vita. E allora io ho pensato veramente che è una cosa straordinaria, perché ci sarà sicuramente un libro che sta più a cuore a tutti noi. Ok, un'altra parentesi, io per esempio mi capita molte volte, io preferisco personalmente la biblioteca, la libreria, però quando entro e che devo comprare un libro in biblioteca, no in biblioteca, in libreria scusatemi, ho una sorta di rito mio, cioè prendo un libro, non guardo il titolo, non guardo la copertina, non guardo la quarta di copertina e inizio subito a leggerlo, e se mi piace il modo in cui è scritto, il ritmo, le parole, se non è troppo noioso, troppo lento e se si capisce subito, allora lo prendo, altrimenti no. Invece faccio l'opposto, guardo solo la copertina. Ad esempio ero in una piccola libreria e ho visto questo libro che aveva una copertina fichissima, era tutta tipo di brocca, cioè non so, di tessuto rosso con tutte delle cose in oro, e poi l'ho aperto in una pagina a caso per vedere, c'era dentro un fiore essiccato, quindi ho detto buona, io questo lo prendo, cioè è stato amore a prima vista, si chiama Il vento non sa leggere, ed è anche questa una storia d'amore, però è molto bella, un pochino all'antica, però molto molto al bella. Contrario vostro, io adoro in una maniera veramente impressionante le librerie per 3 motivi. Il primo motivo è perché appena entri senti un odore di libri che è fantastico, libri nuovi e carta appena stampata. Il secondo motivo è perché in quasi tutte le librerie di Bologna c'è il parquet e mi piace da impazzire il rumore dei passi sul parquet. Il terzo motivo è che c'è sempre l'aria condizionata a palla e quando ci entro in estate è veramente un sollievo pazzesco. Penso che anche questo sia fatto apposta, perché così sei caldo e entri, compri qualche libro, ti rilassi anche. Ora che siamo nell'ora tecnologica, tutti i libri sono destinati a essere soppiantati da ebook, da cose così, tipo libri. Io quelli li odio perché a me piace proprio toccare la carta. Ma invece sono molto utili, secondo me, molto pratici e comodi, perché esatto, non hai il peso del libro. E poi magari puoi tirarli fuori in modo tattico durante le lezioni per sfogliare un po' di libro. Magari, non so, stai leggendo la Divina Commedia e caso strano Dante sviene per la strada, beh, tu ti tiri fuori il tuo libro e finisci di leggerlo. A me piace molto invece di più avere in mano un libro, poterlo sfogliare, soprattutto se l'ho preso dalla biblioteca, perché sento che comunque è un libro che qualcuno ha già letto e si sente magari che è un libro vissuto, quindi mi piace molto di più leggerlo invece di cioè leggerlo da uno schermo, avere tipo 5.000 libri su una scatola non mi piacerebbe per niente. Ma anche secondo me gli ebook sono molto pratici, però secondo me i libri stampati hanno un fascino particolare. Secondo me il fascino di avere la libreria con tipo una saga di libri lì perfetta, non ne manca uno, tutti in ordine. A me il mio senso dell'ordine da, cioè sono troppo felice quando vedo tipo i miei Harry Potter lì fissi, li guardo e mi sento già soddisfatta. Invece in un ebook non posso proprio vederli. Io quando vedo i miei Geronimo Stilton tutti no rega, stavamo prima parlando di viaggi, fantasia, bambini e non ci viene in mente Geronimo Stilton. Oppure anche Topolino, tutti, Topolino tutti. Viaggio nella fantasia 1, 2, 3, 4, 5, tutti quelli che sono venuti dopo hanno davvero fatto appassionare con le porte che facevano odore. Viaggio nel tempo, viaggio nel tempo incredibile. Cavolo, quelli sono i libri che ci hanno fatto avvicinare al mondo della letteratura, siamo sinceri un attimo. Eh già, questo è vero. E anche fumetti un sacco, io leggevo un sacco di fumetti quando ero piccola, leggevo da Topolino, amavo Diabolik completamente, davvero era amore tra me e Diabolik. Va bene, allora noi, questo è quello che noi ragazzi di Radio Immaginario pensiamo, ringraziamo Alessandra e niente, ciao a tutti. Ciao, ciao. Oh bel, c'è Radio Immaginaria. 3, 2, 1, siamo in onda. Funziona così, noi scegliamo gli argomenti, ci ritroviamo, parliamo di quello che ci pare e parliamo anche in 10 davanti a un microfono. Chiunque può dire la sua. Facciamo quello che vogliamo e gli adulti non si intromettono. Se qualcosa ci appassiona non deve occupar tempo. Siamo in tutta Italia, verso l'infinito e oltre. Radio Immaginaria, oh yeah! Li avete sentiti? Grande energia da parte dei ragazzi di Radio Immaginaria. Radio 24 fra l'altro ha dato loro la parola in queste settimane, negli ultimi mesi, diciamo anche in altri programmi, e per questo mi piace segnalare l'evento dal vivo che stanno organizzando. Si chiama Teen Parade, si svolgerà a Castel Guelfo di Bologna il fine settimana del 10 e 11 settembre. In questa occasione gli studenti affronteranno un tema importante, il lavoro, ovviamente spiegato dagli adolescenti, si guarda sempre il punto di vista dei ragazzi. Si parlerà di come scatenare nei ragazzi fra gli 11 e i 17 anni la passione per il lavoro, perché il tema del lavoro deve essere accattivante, specialmente per gli adolescenti, insomma non deve essere motivo di ansia o sinonimo di cattiva notizia. E dunque nella piazza di Castel Guelfo di Bologna ci saranno 20 case cube, cioè spazi espositivi dove verranno ospitate 20 eccellenze imprenditoriali capaci di mostrare e raccontare come la fantasia, la passione, un po' di follia si possono trasformare in lavoro. E ci sarà anche il nostro di Radio 24, intendo, Federico Taddia, che organizzerà un live per la domenica sera. Anche per questo appuntamento con il Cacciatore di Libri è tutto, grazie in regia Pietro Lacorte. Vi ricordo che trovate tutte le puntate, sia quelle estive sia quelle normali, su radio24.it. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.